Stiamo per parlare di teatro al Nuovo Cinema Palazzo, di Contrabbando, e ne parliamo con Federica e Chiara, che sono qui con me, di fronte a me qui in studio. Tanto benvenute. Benvenuto, grazie. È la vostra prima volta, diciamolo. Sì, per me forse è la seconda, quindi l'impatto è sempre quello dell'entusiasmo e anche dell'imbarazzo. Intanto ringrazio te, Federico, tutta la redazione Radio Onda Rossa per averci ospitato qui e dedicarci qualche minuto a me e a Federica per parlare un po' del Contrabbando, che è uno dei progetti che sono in seno al Nuovo Cinema Palazzo. Il Contrabbando prevede delle residenze artistiche, l'invito è aperto appunto a collettivi, a compagnia, forme di arte che possano appunto inserirsi nello spazio nel tentativo anche di produrre qualcosa. Il progetto delle residenze fondamentalmente al Cinema Palazzo era già presente anche negli anni precedenti, lo scorso anno. Come era partito in generale questa idea del bando, allora, per il teatro? Intanto è quello a mettere a disposizione, così come nasce dalla vocazione del Nuovo Cinema Palazzo, a disposizione lo spazio per produrre appunto cultura là dentro. Quello è uno spazio che è stato occupato nel 2011 proprio per salvarlo e liberarlo da quello che erano le mire speculative della Gamen S.p.A., che voleva appunto farci un bingo, un casinò in quello che è un quartiere popolare attraversato da studenti, vicino all'università, e che avrebbe appunto semplicemente prodotto alienazione e non rispondendo ovviamente alle esigenze del territorio. E noi appunto da 6 anni, questo è il 6° anno occupazione, là dentro appunto produciamo come dire concerti, teatri e tutte quelle forme di cultura che sono appunto diverse e multiformi, quindi ci sta il teatro, c'è il cinema, ci sta la musica e ci stanno tutte queste forme qui che noi quest'anno abbiamo cercato di sviluppare all'interno del progetto delle residenze artistiche, appunto quello del Contrabbando. Il Contrabbando nasce come necessità di voler superare quello che è fondamentalmente il meccanismo del bando, sia pubblico che privato, perché ricordo che ovviamente il Nuovo Cinema Palazzo è anche uno spazio privato, quindi non è pubblico, e tratta anche di queste argomentazioni. E in Italia, a Roma soprattutto, il bando viene visto come uno strumento trasparente, uno strumento neutro, in grado con dei parametri di valutazione di assegnare qualcosa e di, come dire, di assegnarlo proprio in base a dei criteri che spesso sono finalizzati a quello che è il commercio. Di conseguenza il nostro tentativo è quello di poter creare un bando che sia appunto Contrabbando, proprio perché supera questi meccanismi, nel tentativo di creare qualcosa che sia diverso al di fuori delle logiche appunto commerciali, come quello di proporre appunto la possibilità a esperienze artistiche di questo genere di stare nello spazio fino alle 3 settimane di residenza e sviluppare quello che sono dei progetti sia embrionali o già costruiti a livello artistico. L'anno scorso lo abbiamo fatto più con le esperienze teatrali, quest'anno stiamo cercando di diffonderlo e allargarlo, motivo per il quale anche appunto è utile questo intervento in radio. Io farò un piccolo intervento sul come nasce anche l'idea di Contrabbando, oltre a queste cose che ho già detto, poi Federica si soffermerà su altro. E, il progetto nasce appunto perché il ragionamento politico, soprattutto nella città, era quello di capire un po' il bando come era stato strumentalizzato dalle amministrazioni e dalle istituzioni politiche, che ha prodotto sempre più specialmente in ambito culturale quello che poi ha provocato una mancanza di stimolo, una mancanza di evoluzione, soprattutto a Roma. Se noi vediamo la città, è sempre più difficile poter permettere a compagnie o comunque esperienze artistiche di potersi sviluppare, certo, di poter trovare degli spazi per creare al proprio interno nuove forme, soprattutto dal punto di vista teatrale. Nei teatri stabili, nei tir di interesse rilevante, troviamo sempre la riproposizione di quello che spesso è già esistente, ma proprio per la mancanza di poter trovare delle forme di delle forme politiche, diciamo, di adeguamento che possano sviluppare nuovi percorsi di questo genere. L'ultima ciliegina è stato il bando del comune per il Capodanno. Esattamente, infatti. A titolo gratuito veniva chiesto agli artisti una partecipazione senza poter poi pubblicizzare i propri lavori sul palco, e poi chiaramente tutto invece l'apparato tecnico era a pagamento del comune, agli artisti si chiedeva invece la partecipazione gratuita. E anche di coprire coprire appunto l'onere delle spese, senza contare quello che è stato il messaggio istituzionale, perché ha specificato anche il dovere non veicolare nessun tipo di messaggio politico, che comunque è abbastanza, penso, grave dal punto di vista artistico. Io andiamo più nello specifico? Sì, voglio aggiungere a questo che davvero lo strumento, come diceva Chiara, il fatto che le produzioni, soprattutto per quanto riguarda i teatri stabili, quindi che hanno facilità di vita maggiore rispetto alla scena indipendente, produca una programmazione che è spesso stantia, molto, molto datata, e non permetta la sperimentazione. Lo strumento del contrabbando, diciamo, si cerca di situarsi in una situazione in cui per una compagnia la via sembra essere bipartita e non sembrano esserci modi di scantonare da questa spartizione, che da un canto è quella che in un articolo di Andrea Porcheddu sugli Stati Generali viene definita la dittatura del botteghino, cioè le compagnie devono fare pubblico, vivono soltanto se hanno pubblico, e quindi tutta la parte di creazione, diciamo la sfera artistica, viene appiattita sulla necessità di produrre comunicazione, di essere su tutti i social media possibile, chiaramente a discapito del tempo che si può dedicare a quella che sempre nell'articolo viene definita la poetica. Se non questa strada, quello che si può profilare è l'idea di impazzire, di diventare dei topi di computer, impazzire a cercare i bandi pubblici o privati che siano, quindi sviluppando sicuramente delle competenze tecniche, anche queste al di là e oltre, voglio dire, a quello che diceva Chiara prima rispetto al tipo di valutazione che viene proposta da un bando pubblico o privato, ma comunque quale che sia la valutazione, il tempo dedicato alla produzione è tutto detratto a favore della ricerca della possibilità di ottenere la vittoria al bando. Questo tra l'altro produce il fatto che una volta che io, compagnia, vinco il bando, fondamentalmente non è detto che mi interessi più che qualcuno lo venga a vedere, sicuramente non penso, come non è la mia priorità, la restituzione al territorio, perché io fondamentalmente i soldi ormai ce li ho, e che vengano 2 o 100 persone non è più il mio interesse prioritario. E lo strumento del contrabbando e quindi la restituzione agli spazi di questa funzione di mediazione per noi davvero potrebbe essere un po' una vittoria sulla frustrazione di una serie di compagnie. Noi ambiamo a questo, ambiamo addirittura a combattere la depressione delle compagnie teatrali, e quindi speriamo davvero che quel tipo di relazioni, quello che può offrire uno spazio fisico, il suo stare nel territorio, il suo proporre una comunicazione e veicolarla e supplire a questo, il fare rete fra diverse compagnie eccetera eccetera, possa effettivamente essere molto positivo. Anche per non morire di Pirandello, Shakespeare e Molière necessariamente. Soprattutto per questo. Sì, infatti anche su quello che dicevo io prima, poi questi meccanismi vanno anche a determinare quello che è la produzione rispetto al risultato. Cioè quello che fondamentalmente è utile, anche il contrabbando, è proprio cominciare a rivalutare questa idea del processo, non tanto quanto il risultato. Quindi il direttore artistico non esiste in un processo del genere, ma c'è un'assemblea, ci sta quello che si costruisce come relazione tra il collettivo che gestisce sì lo spazio e che viene poi offerto alla compagnia. Di conseguenza tutto il processo interno è condiviso e crea sicuramente che è quello che cercava appunto, anzi che ha detto fondamentalmente Federica, quindi creare un tipo anche di relazione che possa produrre una comunicazione diversa e valorizzare quello che è il contenuto. E questo rientra un po' in quello che è l'interesse e la vocazione di quello che è appunto il Nuovo Cinema Palazzo, che vuole restituire anche questo tipo di offerta e provare anche a cominciare a non considerare più lo spazio come mero contenitore di quello che può essere un evento o un'iniziativa, ma produrre fondamentalmente un contenuto e quindi all'interno di questo trasformare quello che è l'evento in un'iniziativa che per noi è politica in un certo senso, ma che da questo poi ovviamente fuoriesce anche tutto un discorso di cultura in generale, che a Roma è sempre un po' più arido. Senti, tempi, modalità e scadenze per il contrabbando? Allora, per quanto riguarda i tempi, l'invito è aperto per un massimo di 3 settimane di residenza. Noi questo l'abbiamo deciso semplicemente in funzione pratica di quello che può essere l'accoglienza delle residenze al cinema. E, la scadenza è prevista per il 15 gennaio. Okay. E le residenze proprio in quanto tali sono previste nel periodo che va più o meno da febbraio a giugno. Tutto. Riferimenti web? O anche... allora, il sito del Nuovo Cinema Palazzo e la sua pagina Facebook. E ricordo che al termine della residenza la cosa che noi chiediamo alle compagnie che parteciperanno è una restituzione del lavoro prodotto, e quindi una sorta che può andare, diciamo, dalla prova aperta a invece un vero e proprio spettacolo. Come sapete, poi chiaramente per gli spettacoli che saranno, per le residenze, gli spettacoli di chiusura di questa esperienza, qui sono a Radio Teatro le porte sono aperte, per grazie cui mille. Si potrà lanciare anche, si potrà fare anche proprio tutto lo spettacolo radiofonicamente, come spesso riusciamo a fare, dato che gli spettacoli poi vanno in scena il martedì, il Radio Teatro è il martedì, riusciamo a fare un'anteprima della prima. Questo è sempre un veicolo interessante, perché poi radio e teatro sono due cose diverse. La radio il radioteatro ha questa missione, se vogliamo chiamarla così, di spingere la gente ad andare al teatro. E vi ringrazio, i riferimenti li abbiamo dati tutti. Un abbraccio, a presto. A presto. Sicuramente a presto, grazie. Ciao. Mille Federico, e torneremo sicuramente. Grazie a tutti.